Replay. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questo secondo appuntamento con Replay, la trasmissione che ripropone le voci e le idee più interessanti registrate per voi da Radio 24 nel corso dei convegni e dei dibattiti svoltisi negli ultimi mesi in Italia. Oggi la trasmissione è dedicata alle celebrazioni per il centenario della fabbrica Olivetti, che per tutti è quella delle macchine da scrivere. In realtà le vicende dell'azienda di Ivrea sono un po' più complesse di così. Le ripercorriamo riascoltando gli interventi raccolti il 24 ottobre scorso presso il Teatro Studio del Piccolo di Milano durante una conferenza celebrativa del centenario. Ad arricchire il racconto, dalle dirette voci dei relatori, tra i quali l'imprenditore Carlo De Benedetti, il professor Nerio Nesi, anche alcuni estratti da due spettacoli teatrali dell'autrice e attrice Laura Curino, dedicati rispettivamente alle figure di Camillo e Adriano Olivetti, ripresi nel corso del novembre 2008 al Teatro Stabile di Torino. Come tutte le storie che si rispettino, anche quella dell'Olivetti ha un prodromo. Se l'Olivetti viene fondata nel 1908, non è la prima fabbrica di Camillo, che già nel 1896, di ritorno da un viaggio in America, si era buttato nel mercato dell'elettricità. L'idea era semplice. Tutta questa elettricità andrà pur misurata. Ecco, ci vogliono dei contatori elettrici. L'azienda, fondata a Ivrea, resse le difficoltà degli esordi e... Nel 1903 la ciurma di Camillo ammontava a 50 operai, di cui due ingegneri. Finché si trattò di fabbricare prototipi che altri avrebbero prodotto e venduto, le acque colme di Ivrea potevano bastare. Ma adesso, che stavano arrivando a risultati pratici, per produrre da sé ci volevano più capitali. E dove trovarli se non a Milano, che in quegli anni stava strappando il primato commerciale a Roma e a Torino. A Milano era stata varata la Banca Commerciale Italiana e a Milano aveva preso il largo la Edison. E se Camillo voleva fabbricare strumenti di misurazione per l'elettricità, chi poteva comprarglieli stava a Milano. Un giorno Camillo tornò a casa e... «Allora, si va tutti a Milano?» con l'aria allegra di chi propone una gita ai Navigli. «Come Camillo a Milano?» «A Milano!» Camillo aveva trovato di che mettere su una società anonima con nuovi soci e alcune banche che si prestavano a fare da finanziatori. La nuova fabbrica si chiamò CGS. Camillo era contentissimo di quel nome. CGS, centimetro grammo secondo, preciso. Nel 1908, con l'attività di produzione di misuratori elettrici ormai ben avviata, Camillo cambiò obiettivo e si buttò su un prodotto completamente nuovo, le macchine da scrivere. Ebbe successo anche qui. E quando Camillo lasciò l'azienda al figlio, anche il figlio, Adriano, certo non deluse. Stiamo parlando di uno degli uomini più ricchi del suo tempo, di uno che ha ereditato da suo padre una fabbrica di 2.000 operai e l'ha fatta diventare un'azienda di 36.000 addetti, di uno che si è preso le sue soddisfazioni. 1950, Palma d'Oro per la pubblicità. 1955, Compasso d'Oro per l'estetica industriale. 1956, Gran Premio d'Architettura. 1957, Premio della National Management Association di New York per l'azione d'avanguardia nel campo della direzione aziendale internazionale. Il Nobel no, il Nobel non l'ha vinto, ma forse... perché non esiste un premio Nobel per l'architettura, il design, la politica, la sociologia, l'urbanistica, l'editoria. Ma se questi Nobel fossero esistiti, quale avrebbe vinto Adriano Olivetti? Che cos'era? Era un industriale, un politico, un sociologo, un editore, un urbanista, un designer, un architetto? Quello che è certo è che Adriano Olivetti fabbricava macchine per scrivere, come suo padre. E poi anche telescriventi e calcolatori famosi in tutto il mondo. Ma soprattutto Adriano Olivetti è l'uomo che riuscì a produrre l'Elea 9000, il primo calcolatore elettronico di seconda generazione. Quelli di prima generazione andavano a valvole, come le radio. Quelli di seconda generazione andavano a transistor, come le radio. E faceva cose che adesso fa una macchinetta grande così. Ma per quell'epoca, per il debutto dei favolosi anni 60, l'Elea 9000 era high tech, tecnologia d'avanguardia, uscì 3 mesi prima dell'analoga macchina dell'IBM americana. Dunque c'è stata un'epoca in cui noi italiani davamo pastina agli americani nel campo del futuro, l'elettronica. Anni memorabili, favolosi anni 60, anche per l'Olivetti, che in realtà li affrontò senza Adriano, morto proprio all'inizio del decennio. Poi la crisi, una seconda giovinezza, con l'ingresso in azienda di Carlo De Benedetti, e un nuovo obiettivo, la telefonia cellulare. Fino all'uscita di scena dell'azienda dal mercato, con il ritiro del titolo dal listino della Borsa di Milano nel 2003. Una storia che inizia 140 anni fa. Alle 9:30 pomeridiane del 13 agosto 1868, corrispondenti alla luna di Av, 5628 dell'era ebraica, nella villa situata ad Ivrea, alle pendici di Monte Navale, nasce Samuel David Camillo Olivetti. La prima voce che ascoltiamo in questo replay è di Neri Onesi, politico, imprenditore e banchiere. Tra le sue esperienze professionali anche una lunga militanza nella dirigenza dell'Olivetti. Alterniamo la sua ricostruzione delle figure di Camillo e Adriano Olivetti con alcuni brani tratti dai due spettacoli di Laura Curino. Noi celebriamo non la storia personale di Adriano, di suo padre Camillo e di suo figlio Roberto, ma è altrettanto vero che non si può ricordare la storia dell'azienda se non avendo ben chiara la impronta fondamentale che essa ha ricevuto da questi tre uomini e da una famiglia, l'intera famiglia Olivetti, che sono stati, rimangono assolutamente peculiari nella storia della grande borghesia italiana ed europea. E ciò non soltanto per quello che hanno creato, ma anche per come lo hanno fatto e per le profonde tracce sociali, culturali e umane che hanno lasciato. Cosicché noi possiamo tranquillamente ritenere che non vi è stata entità imprenditoriale in Italia e forse in Europa in grado di produrre il mito come l'ha prodotto l'impresa Olivetti. E ciò ha riguardato non soltanto le sue trasformazioni di prodotto, di mercato, di strutture, dalla meccanica di precisione con la quale cominciò, all'elettromeccanica, poi dall'elettronica all'informatica, dalla tecnologia dell'informazione alla tecnologia delle telecomunicazioni, ma ha riguardato anche i mutamenti di proprietà, talora drammatici, che sono avvenuti, e i mutamenti di stile, di direzione e di relazioni interne. Bisogna aggiungere però che la storia della società Olivetti non finisce con la morte di Adriano. Essa continua, seppur in modo diverso, per molti anni, fino a quando il 12 marzo 2003 il nome di Olivetti viene cancellato dal listino della Borsa Italiana. Però la domanda di Adriano Olivetti è ancora attuale. Può l'impresa darsi dei fini che non siano identificabili esclusivamente negli indici dei profitti? Non vi è qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione, anche nella vita di una fabbrica? Fu una irripetibile utopia? L'elettricità è l'affare dell'avvenire. Si venderà sempre più elettricità e bisognerà misurarla. Ho in mente di mettere in piedi una fabbrica di strumenti di misurazione per l'elettricità, una nuova azienda che creerò dal nulla. Strumenti elettrici? Figurarsi ad Ivrea. Oh, ma no, Olivetti, no, no. No, li fa già il Gabella a Milano, no. C'è concorrenza forte dai tedeschi, no. Camillo fece costruire un capannone di mattoni rossi. Oh, ma guarda se deve perdere tutto questo tempo coi contadini, ma vuol mettere in mano strumentazione di precisione alla nostra gente che è capace malapena ad operare la zappa, ma non son preparati, diamine. Voi badate ai fatti vostri che istruire i contadini ci penso io. Perché c'è una storia anche alle spalle. Il primo maggio del 1924 il fascismo abolisce la festa del lavoro. E cosa fece Camillo De Benedetti? Ha tutto scritto un articoletto sul giornale di Ivrea in cui diceva esattamente questo: stiano attenti gli industriali, era un industriale che parlava, a non farsi illusioni su una pacificazione della classe operaia ottenuta a suon di manganello. 1924. Quindi c'era già l'inizio di una, il fondatore era uno che la pensava così, forse un po' confusamente anche. Lui diceva cose come: il lavoro avrà un posto importante nella società del futuro. Porre rimedio alle ingiustizie dello Stato. Parole come solidarietà, progresso, incivilimento, figurarsi ad Ivrea. Olivetti, ma stia tranquillo, ma non si scaldi tanto, Olivetti. Olivetti, la prenda più bassa. Olivetti, stia tranquillo. C'è un bellissimo racconto di Libero Bigiaretti di quando Camillo Olivetti muore in una cascina mentre era ricercato dai fascisti, vecchio, stanco, in una cascina del Biellese, e quando c'è il funerale gli operai partono da Ivrea in biciclette per andare a salutarlo. 1955, Adriano Olivetti fa un discorso che è rimasto storico per la classe imprenditoriale e anche per la classe operaia, nel famoso Salone dei 2000 che c'è ancora adesso. Comincia così: le classi lavoratrici, più che ogni altro ceto sociale, sono i rappresentanti autentici di un insopprimibile valore, la giustizia, e incarnano questo sentimento con slancio talora drammatico, ma sempre generoso. D'altro lato, gli uomini della cultura, gli esperti di ogni attività scientifica, esprimono attraverso la loro tenace ricerca valori ugualmente universali nell'ordine della verità e della scienza. Questo è l'Adriano Olivetti. Adriano è uno che negli anni 50, quando è diventato capitano d'industria, ha riunito attorno a sé le mani e le menti più brillanti della sua generazione. A Ivrea, a quell'epoca, ci sentivi parlare tutte le lingue del mondo. Ai tavolini del caffè, Cesare Pavese conversava con Lana Turner. Dentro la fabbrica, nel Salone dei 2000, tutti i venerdì, una grande orchestra teneva un concerto importante. Una danzatrice del Bengala interpreterà versi di Tagore. Ai giovedì del cinema, personalmente De Sica presentava Ladri di biciclette. E dopo la mensa gli operai potevano discutere di rapporti fra letteratura e società con Moravia e Pasolini. La prima tournée del Piccolo Teatro di Milano con l'Arlecchino servitor di due padroni toccò Ivrea, il Salone dei 2000, la fabbrica come prima tappa. Per le strade di Ivrea ci passeggiava Le Corbusier. Chi? Le Maître, il più grande architetto contemporaneo. La storia dell'Olivetti non finisce con la morte di Adriano Olivetti nel 1960. L'azienda è prima impegnata nella produzione di misuratori di precisione, poi nelle macchine da scrivere, poi ancora nell'informatica. L'ultima avventura della fabbrica di Ivrea è nel campo della telecomunicazione con Omnitel. A guidare l'Olivetti per parte di quest'ultima fase, dal 1978 al 96, è stato Carlo De Benedetti. La dimostrazione che l'Olivetti non solo non cooptava, ma distribuiva nel mondo le proprie forze, i propri uomini, è che lei più o meno negli anni 70 girava per l'Italia e trovava quantità di olivettiani in posizione di comando, mentre io, che ho fatto una breve esperienza in Fiat, non ho mai trovato un uomo Fiat fuori dalla Fiat. Non c'è polemica in quello che dico, è semplicemente un dato di fatto. Quindi l'Olivetti è stata prima di tutto una fucina di persone, e l'Olivetti ha potuto sopravvivere e ha prosperato con persone atipiche. Atipico non vuol dire necessariamente brave, vuol dire che erano fuori dalla tipologia dominante in quel momento. Io non ho conosciuto ovviamente Camillo, non ho conosciuto Adriano. Ho conosciuto e sono stato buon amico e lo ricordo sempre con grande affetto Roberto. Ognuno di loro era una persona atipica. Siccome qui parliamo di memorie ma in maniera non retorica, quell'azienda poteva vivere solo avendo un leader che fosse atipico rispetto al momento nel quale operava. Se uno non capisce questo, non capisce perché l'Olivetti è morta. Non capisce perché l'Olivetti è nata, ma non capisce neanche perché è morta. Ingegnere? Camillo Olivetti EC, prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere. Oh, ma no, ma Olivetti, no, ma no, ma aveva messo su un così bel commercio a Milano con quei suoi strumenti di misurazione. Adesso che a Milano avevano avuto successo, a Ivrea gli strumenti di misurazione piacevano a tutti. Oh, poteva godersi i risultati, la famiglia, magari qua in campagna per la salute, si capisce, ma macchine per scrivere. Ora qui c'è un bel mistero. Il cartello sul vecchio edificio di Mattoni Rossi compare il 29 ottobre del 1908, ma prima che una sola macchina per scrivere esca da quei cancelli, bisognerà aspettare l'esposizione universale di Torino del 1911, 3 anni dopo. Come ha fatto Camillo a mantenere la fabbrica, gli operai, per 3 anni senza produrre niente? Ivrea la bella non è Milano, la gente mormora, si dice che Camillo abbia fatto il passo più lungo della gamba, e non avevano mica torto. Come facevano le macchine per scrivere a pagare gli operai se ancora non erano state costruite, non dico le macchine per scrivere, ma neanche le macchine per costruire le macchine per scrivere? No, l'Olivetti stavolta non ce la fa, no. Poteva mettere su una bella filanda. Ecco, filande ne abbiamo già avute, ma macchine per scrivere. È veramente una storia di passione, l'Olivetti. Cioè, non è una storia razionale. Ecco, io penso che questa atipicità che è stata comune, e lo dico con molta coscienza della mia immodestia, che è stata comune a Camillo, ad Adriano, a Roberto e a me, è stata quella che ha reso possibile a un'azienda di sopravvivere non solo ai cambiamenti storici che sono venuti nel prodotto e nel mercato, ma che è stata possibile sopravvivere alle amputazioni che le sono state fatte. Anch'io sono stato rovinato dalla passione, ma devo dire che oggi, a anni di distanza, continuo a ritenere che sia stata la mia fortuna e la mia disgrazia. La mia fortuna perché io ricordo ancora quando nel gennaio del 78 Visentini venne a trovarmi e mi disse: senta, io le faccio una proposta, a condizione che lei non guardi i bilanci, perché se guarda i bilanci l'azienda lei non la compra proprio, ma se non li guarda e crede in me, lei, l'Olivetti, se la compri, perché lei è forse una persona che può, nella sua atipicità, perché io sono un atipico di modi diversi, voglio dire, ma diciamo dotato di uno stesso senso di atipicità come lo sono stati i miei predecessori. E io non ebbi alcuna voglia di guardare i bilanci, non solo perché Visentino mi disse di non guardare, ma perché sapevo già che l'azienda era fallita. Cioè, nel 1978 l'Olivetti era tecnicamente fallita e quindi era inutile mettersi a esaminare il passato. Si poteva semplicemente pensare che su quella platea di uomini, di marchio, di simpatia che l'Olivetti suscitava nel mondo, si poteva ricostruire un'azienda, passando attraverso grossi sacrifici. E fu un grandissimo successo. Oggi naturalmente l'Olivetti viene vissuta per la sua fine, ma io penso che siano stati anni esaltanti, non solo per me, per il Paese. Quindi dicevo che è stata la mia fortuna perché mi ha consentito un'esperienza straordinaria che ha caratterizzato la parte centrale della mia vita. Dall'altra parte è stata la mia disgrazia perché l'ho amata troppo. Nel senso che quando a metà degli anni Ottanta l'AT&T voleva, siamo partiti da Torino, avevo noleggiato un aereo e siamo andati insieme a Piol, all'avvocato Rosiello, a Paolo Mancinelli, all'ingegner Levi, alcuni altri collaboratori, siamo partiti da Torino e siamo andati a New York per un meeting conclusivo per la cessione dell'Olivetti alla AT&T. E le sembrerà molto, vi sembrerà, scusate, molto superficiale, banale, forse anche poco credibile. Vi credo, vi prego di crederci. Abbiamo, insieme ai miei collaboratori, cambiato idea durante il viaggio. Ci eravamo andati per firmare la vendita e durante il viaggio abbiamo deciso di non vendere. E io mi ricordo, perché il presidente del TNT era un signore che si chiama Bob Allen, e mi accorse, era una domenica, avevamo deciso di firmare di domenica anche per una ragione di essere prima e fuori dai mercati finanziari, sia per loro che per noi. E mi accorse, c'era una cinquantina di manager delle TNT, c'era una specie di preparazione del brindisi, cioè c'era da mettere una firma, non c'era più niente da discutere. E io gli chiesi un colloquio a tu per tu, prima di non aprire la seduta, e mi dissi: guarda Bob, ho deciso di non vendere. Lui mi ha detto: sei matto, non puoi dirmi una roba del genere, che abbiamo deliberato in consiglio, qui c'è tutta la gente. No, guarda, ho deciso di non vendere. E quindi è stata la mia fortuna e la mia disgrazia, nel senso che la passione che si era impadronita di me da parte della Olivetti era tale che non potevo separarmene e non potevo neanche fare un torto a un'azienda che avrebbe avuto i suoi problemi, perché mi era chiarissimo che quali erano i problemi che aveva davanti l'Olivetti, ma di fronte alle persone che avevano collaborato con me ormai da diversi anni, pensiamo alla metà degli anni 80, quindi erano 7-8 anni, che avevano vissuto la rinascita dell'azienda, gli incredibili successi che cogliemmo in quegli anni, anche nell'elettronica. Cioè, lei ha ricordato la Divisumma 24, io voglio ricordare la M24, e cioè il personal computer concepito a Ivrea, di cui si produssero più di 1 milione di esemplari, e che era considerato in quel momento storico il miglior PC al mondo, molto meglio di IBM, molto meglio di Apple. Non ho potuto separarmene, avendo chiaramente davanti il fatto che sarebbe stato opportuno nella mia qualità di azionista e certamente molto lucroso per me venderla. Ecco, questo per dare un'idea che la passione qualche volta trasforma anche delle persone certamente atipiche come me, ma razionali, o che cercano di essere razionali, in persone del tutto irrazionali. Per cui questo per me non è un episodio, è un fatto della mia vita indimenticabile. È tutto per questo replay dedicato al centenario dell'azienda Olivetti. Le voci che avete ascoltato erano di Nerio Nesi, politico, imprenditore e banchiere, e di Carlo De Benedetti. Le drammatizzazioni erano invece tratte dai due spettacoli Camillo Olivetti, Alle radici di un sogno, e Adriano Olivetti, di e con Laura Curino. Un ringraziamento alla Fondazione Olivetti per la collaborazione nella raccolta dei materiali che avete ascoltato e al Teatro Stabile di Torino. Buona serata.